nelle prossime settimane elaboreremo delle proposte precise che andranno in continuità con quello che abbiamo già segnalato. Ad esempio, avevamo fatto tutta una serie di proposte sull'applicazione del PNRR, sulla possibilità di implementazione di varie cose anche legate alla pace e al disarmo in quel contesto. Ovviamente, andando per grandi capitoli, ci sono fondamentalmente tre cose da dire. La prima, smettere di aumentare le spese militari. Le spese militari non portano vera sicurezza. La vera sicurezza si ha con la gestione del territorio, lo vediamo sulla siccità adesso, con la lotta al cambiamento climatico, con politiche di welfare e di lavoro. E quindi continuare a pensare che investire in armi, investire in eserciti ci possa portare maggiore sicurezza non va bene ed è sbagliato. Il secondo aspetto è quello legato all'industria militare e all'export di armi. Anche in questo caso, ovviamente, se vogliamo essere promotori di pace in Italia e internazionalmente, dobbiamo smettere di sostenere un'industria che in realtà basa il proprio successo sul fatto che si vendano armi e soprattutto che si vendano armi nei luoghi di conflitto. Quindi applicare in maniera forte tutto quello che sono le regole della legge 195 del Trattato Internazionale sul Commercio di Armi ed essere coerenti in tal senso. Poi a corollario ovviamente ci sono tante altre questioni legate al cosiddetto disarmo umanitario, quindi lavorare per il disarmo nucleare e il Trattato di protezione delle armi nucleari, lavorare per mettere al bando le armi autonome, i killer robots di cui si parla in questi giorni a Ginevra in sede ONU, lavorare perché ci sia un utilizzo minore di armi nei contesti esplosivi e ci sarà una dichiarazione politica internazionale a settembre. Quindi questi sono gli aspetti più, diciamo, di cuore dell'ambito pace, disarmo e riduzione di spese militari. L'ultimo aspetto è quello un po' più propositivo, cioè se vogliamo davvero una politica non violenta di pace dobbiamo investire in quelle che sono le risorse che la promuovono, sia internamente, perché le politiche non violente sarebbero molto utili anche a livello nazionale, che internazionalmente. Quindi istituire un dipartimento per la difesa civile non armata e non violenta, rafforzare i corpi civili di pace che sarebbero stati utilissimi nella questione ucraina e non solo, rafforzare la cooperazione internazionale, perché ormai è chiaro, e lo dicono tutti i documenti, anche discussi a livello dei ministeri, il cosiddetto triplo nesso per la pace, tra disarmo, non violenza, peace building, quindi processi di rafforzamento delle istituzioni locali nei contesti di conflitto, e poi cooperazione allo sviluppo, perché solo una società che possa avere maggiori risorse per tutti, possa allargare i diritti per tutti, potrà essere in pace. Ecco, tutte queste cose poi noi non solo le decliniamo in grandi titoli, ma siamo anche in grado e saremo anche in grado di farlo in proposte concrete, però il quadro dovrebbe essere questo. Purtroppo non solo la situazione in Ucraina, ma anche, diciamo, la dinamica degli ultimi anni dimostra che le forze politiche che hanno governato in questi anni stanno andando e sono andate in direzioni opposte, ma noi continueremo a mettere sul tavolo queste iniziative, questi percorsi, perché crediamo che siano quelli che potranno garantire davvero la pace, ripeto, non solo fuori dall'Italia, ma anche all'interno dei nostri confini. A livello nazionale penso si sono evocati impegni e appartenenze, diciamo così, internazionale, sto facendo riferimento alla NATO, impegni dai quali poi non si potrebbe tornare indietro e quindi queste vengono usate per giustificare anche politiche belliciste, diciamo. Si possono interpretare in modo diverso? Assolutamente sì, prima di tutto fa specie che appunto solo alcuni tipi di accordi legati al riarmo e a una politica militare internazionale vengono poi presi in considerazione come imprescindibili, no? Mentre magari le promesse fatte da decenni sulla cooperazione, sui soldi per la cooperazione internazionale sono disattese da ben prima che ci fosse appunto questa richiesta del 2% della NATO. Quindi anche lì è significativo per esempio anche la reazione che i paesi, tra cui il nostro, hanno spinto a fare all'Europa rispetto all'Ucraina, no? Con appunto soldi subito per le armi, le OPP Facility, le Operation Defense Fund. Se pensiamo a un paio di anni prima, la reazione invece molto più lenta e blanda su una cosa molto più impattante come quella del Covid-19 fa capire tante cose. Purtroppo è così, purtroppo molte forze politiche, esponenti politici credono che portare avanti questi slogan e queste politiche che ovviamente fanno piacere a molti potentati e quindi garantiscono magari certe carriere politiche sia più facile. È chiaramente più remunerativo dal punto di vista politico per loro stessi, però non porta soluzioni. Ma guardando gli ultimi 20 anni, lo ripetiamo da tempo, la crescita delle spese militari e della militarizzazione non ha portato a un mondo più sicuro, anzi al contrario. E un anno fa di estate si parlava di Afghanistan, completamente dimenticato, dopo 20 anni di intervento militare, del tutto fallimentare, completamente dimenticato, si lascia tutto indietro. Ecco, purtroppo la politica e i politici sono molto più facilmente influenzabili e attirabili da questi slogan che gli permettono di collocarsi in posizioni molto ben coperte a livello nazionale e internazionale senza far fatica. Invece la costruzione di una società più giusta in pace, perché sono due lati della stessa medaglia, la pace e la giustizia ovviamente, è complessa, è derivante da scelte di lungo periodo. Purtroppo, fatemelo dire con una punta di tristezza, mi pare che non solo in Italia, ma soprattutto in Italia, la politica non sia più in grado di fare quello che faceva nei decenni prima, con tutti gli errori e gli sbagli, cioè di guardare nel medio-lungo periodo. Si guarda sempre a quello che succede fra qualche giorno, fra qualche settimana, alle prossime elezioni, e non si capisce che invece i percorsi seri, i percorsi veri, le cose che cambiano la vita delle persone davvero. Nel nostro paese pensiamo al Servizio Sanitario Nazionale, pensiamo alle legislazioni sul lavoro, agli investimenti fatti in passato, non hanno un corto respiro, hanno un lungo respiro. E lo vediamo anche in queste ore, no? Crisi, con questi toni apocalittici, sembra quasi che caduto un governo Draghi finirà tutto, il diluvio, no? L'attradimento, eccetera. No, questa non è una politica seria, è una politica che guarda queste cose emozionali, guarda queste situazioni estremizzandole, vuol dire che non sta davvero percependo la prospettiva di quello che serve alle persone in una situazione di crisi generalizzata su vari aspetti. Ecco, noi pensiamo invece che il contributo del terzo settore, delle associazioni, della società civile può essere quella di dire: guardate che c'è un percorso più lungo da fare, guardate che ci sono delle prospettive da guardare, volete veramente pace e giustizia, quello che state facendo è sbagliato,